140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco la protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. 20 anni fa un album, Tregua, che fece storia. Ora festeggia quell'anniversario riportando il disco in tour, Cristina Donà. Ci ho pensato perché sono per ora allergica alla nostalgia. Però devo dire che in questi anni, soprattutto con l'avvicinarsi di questo ventennale, ho incontrato molte persone, chiamiamoli fan, anche se non amo questa parola, diciamo dei frequentatori della mia musica, che mi chiedevano, perché insomma ci si guarda intorno, spesso i gruppi, gli artisti festeggiano il ventennale o comunque degli anniversari che della ricorrenza dei loro primi lavori soprattutto, e quindi mi sono chiesta perché non dare un po' di soddisfazione a queste persone che mi seguono da così tanto tempo. Io ho passato, diciamo, adesso ci ho fatto pace, forse è un altro dei motivi per cui ho deciso di festeggiarlo, no? Però mi avevano un po' etichettata come, adesso cito un artista inglese che stimo moltissimo, che è PJ Harvey, mi avevano un po' calata in quel ruolo di Dark Lady, e io da lì in poi ho cercato invece di scappare, e dunque volevo un po' mettermi alla prova anche e festeggiare questi 20 anni, perché sono ancora qua a fare un mestiere che amo e che non avrei detto di riuscire a protrarre per così tanto tempo, perché quando ho scritto la prima canzone tardi, perché ci sono arrivata che avevo 23-24 anni, non, così mi sono detto ok, bella, sarà l'ultima, e invece no, ne sono arrivate altre. Guardo fuori dall'alba, come fuggono le ore da qui, e ci dobbiamo salutare. C'è un'altra giornata d'amore da preparare. Ho visto solo stelle buone sulla tua pelle. Se tornerai domani saprò darti quelle perse. Lascerò che tutto sia sospeso fino a quando non ci rivedremo. Nelle canzoni di Tregua c'è Cristina di 20 anni fa. Mm-hmm. Che impressione ti fa quella ragazza? Allora, intanto c'è la parte musicale cantata che sento proprio non mi appartiene più, cioè quel modo di porsi vocalmente, di quasi di non pronunciare le parole, adesso è una cosa un po' tecnica, sino alla fine, di mangiarsele un po', in tutti i ghirigori, gli svolazzamenti, che sono cose, ecco, forse quello corrisponde a una maggior concretezza, no, dell'oggi, dove il cantato è più definito, e quindi in quella Cristina, ecco, la guardo sì con un sorriso, poi ci sono le parole, in realtà i testi ai quali io tengo molto, ecco, quelle parole mi corrispondono ancora, e alcune mi sorprendono, ma anche perché arrivavano in modo più ingenuo, però lì, ecco, c'era un approccio più ingenuo, dicevo prima, ho usato questo aggettivo che fa anche bene a volte, no? Se si riesce a capire se è una vera o una falsa ingenuità, però per un'opera prima ci sta. Ci sono delle firme importantissime in quell'album, dei compagni di viaggio che poi hanno, come te, determinato gran parte della musica degli anni successivi. Beh, intanto citiamo il produttore famosissimo ormai di Tregua e anche dell'album successivo a Tregua, che è Nido, ovvero Manuel Agnelli. Che abbiamo sentito recentemente nominare un paio di volte. Ah, sì. Ma guarda, io sono felice che insomma delle sue scelte, del fatto che appunto possa parlare anch'io, cioè anche per una questione egoistica, perché è come dire allora non ci siamo sbagliati, no? Allora c'era quello, avevamo allora. Strofini le mani, riscaldi i tuoi polsi magri, quanti sono i tuoi angeli, vergini e pipistrelli. Mischiano luce e colore. Festeggiano adesso questi 20 anni? Allora, si festeggiano intanto prendendo questo disco che ha 20 anni e con il desiderio di non riportarlo in scena esattamente così com'era. Volevo che però questo concerto avesse le caratteristiche, quindi riportasse alcune delle caratteristiche del disco così com'è, ma ne aggiungesse delle altre, ovvero qualcosa che facesse capire che c'è stato poi un percorso, che c'è voglia di inserire qualcosa di oggi. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Cristina Donà. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.